Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Benvenuti nel consueto spazio quotidiano dedicato alla salute. Oggi insieme al dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare esperto in nutrizione, impariamo a riciclare gli avanzi in tutta sicurezza senza rinunciare al piacere del gusto. Dottor Donegani, buongiorno. Buongiorno Nico. Da che cosa cominciamo? Beh, seguiamo il menù, direi incominciamo dagli antipasti, che in effetti sono tra l'altro tra gli alimenti che più spesso avanzano, perché c'è questa idea di portare in tavola, proprio per inaugurarla, uno sproposito di salumi, il classico antipasto all'italiana, poi il salmone affumicato non manca mai. A Natale mai, soprattutto. Allora, certo. E poi quando arriva lì dici, caspita, adesso cosa ne faccio? Anche il sott'olio, ok. Allora, diciamo partiamo questo. Dai salumi. I salumi. Dagli affettati. Ecco l'affettato. All'italiano. L'affettato, quando è già affettato, è un prodotto molto delicato, sì. Perché espone un sacco di superficie all'aria, per cui si ossida, si secca, così. La cosa, se io conto di consumarlo entro uno o due giorni, è sufficiente avvolgerli bene nelle pellicole trasparenti, però andando a scegliere quelle che sono grasso resistenti, cioè se noi andiamo a leggere sulle istruzioni per le pellicole, no? Sì. Troviamo che su alcune c'è scritto proprio non sono adatte al contatto con i grassi. E essendo i salumi appunto alimenti grassi, in questo caso sono da evitare perché potrebbero dare delle eccezioni. Quindi dobbiamo prendere le pellicole in cui non c'è questa dicitura. Non c'è questa indicazione, esattamente. Se io il consiglio che mi sento di dare, siccome sono sempre molto più diffuse le affettatrici domestiche, se il salume viene preso in pezzo, no? Prima di servirlo, ovviamente affettarlo in una quantità ragionevole, tanto si può poi affettare dopo. Certo. Ma oltretutto c'è la possibilità poi di conservare molto meglio il pezzo di salume. Intero in frigorifero. E meglio ancora in sottovuoto. Cioè oggi il sottovuoto, le macchine per il sottovuoto domestico veramente costano poco rispetto a quello che era un tempo. Cioè, per cui in effetti il sottovuoto facile da fare, ok, prolunga perfetto. Anche di tre volte la durata. Perfetto, non solo per gli affettati, ma ad esempio il salmone affumicato, un classico delle feste. Il salmone affumicato è un classico anche delle feste. Anche lui è grasso, quindi occhio alla pellicola. Esattamente, ma io lo metterei sia sottovuoto e poi anche congelato. Si può congelare nel nostro congelatore domestico e dura tantissimo e si mantiene molto bene. Ma lo congelo e posso, al momento poi dell'utilizzo, come posso utilizzarlo? Meglio scongelarlo lentamente. Sì. Oppure, se proprio voglio, in acqua fredda. Grazie dal dottor Giorgio Donegani, grazie a voi. Noi ci sentiamo domani, sempre a mezzogiorno.